siamo perduti. Comunque io ti ascolto, va. Interessante è quello, la, quanto l'hai messo? Più o meno. peccato che lei ha tenuto, se lo potete muovere. Ciao, addio. Sì, che col motocarro, che sono toccata a volta lì col motocarro, l'ho visto io che con l'antenna, con la 2001, l'ha messa, ho messo il coso in acciaio sopra la cappotta del motocarro e sotto casa vostra. Ancappa, ciao lui. Ciao lui. È una satanescenda, davvero. Mamma mia, cara, cara. E allora, tutto a posto, sì. Buongiorno a tutti e ciao Giampaolo con la marea di tempo. E ben ascoltato. Sappiate che io ho due baracchini da vendere, sappiate che ho due baracchini da vendere, alleare le figlie, ho due baracchini buoni, prima a provare perché sennò davanti a me, tutto quanto quello che volete, chiamatemi tutti un altro lì da vostra stazione, andare a mandare a serale, io vi dato, tutto quanto, tutte cose, sennò poi, sai, non voglio avere più niente con nessuno. Due baracchini, uno è il, ve lo dico subito, è un Lincoln, poi l'altro è come si chiama, corrente, ecco qua. Allora, bianco per me, dai, che io vado a mangiare, ce lo sentiamo dopo. Ehi, Anto, vai, vai. Appetizio. 144. Ma perché là? Ah, è buon carico, Anto, ciao, ciao. Oh, oh, già, ce l'ho con te, mi devo rispondere. Cosa mi hai detto? Ti ho chiesto come hai fatto a travolgermi la portante che c'è qua. Come ho fatto? Con la parigna. No, cazzo, me l'hai travolta, gli sei passato sopra, come torno tornato, e chissà non era mai successo. Che pazzo. Ah, vabbè, basta la parola, vai. Un galatasfrutto mi stanno cercando. Allora, capito se si è mai lamentato il brutto che gli ho dato io. Non ho capito. Chiedi a Rita se si è mai lamentato di quel baracchino che gli ho dato io, del brutto. No, infatti non si è mai, lamentata. La difesa, ma lo so, qualche amico mio me l'ha cercato, ripeto, il brutto, capito? Me l'ha cercato perché vanno bene, là, si possono fare delle piccole modifiche, ma vanno bene. E comunque c'ho anche i microfoni per interessa, insomma. Può dire una frase, cioè, levare, nessun. Mi tiro, niente, io ne ho, ma non do niente. Tengo tutto io quello che c'ho. Ma io la casca, dai, che microfoni c'hai? Ora ho un microfono che se lo vede Walter a me da guai, guai. Ho un microfono che tutto lo sogni, ma non solo tu, ma tanta gente se lo sogna, un microfono. Dimmi il microfono. Non lo conosci tanto, non lo conosci. È quello che in realtà me ne fa, 4 a 0. Dai, il tavolo più 3 è Sidic. No, ma questo ha l'equalizzatore, bello, capito? Ed erano quei primi che erano usciti, adesso dico, l'era spaziale, diciamo, era i Sidi, e l'AM International Multimode 3, lo ricordo, lo sentite, quello, l'AM International Multimode 3, te lo ricordo. Io credo che lo ricordo. Ecco, l'epoca lì, sono usciti quattro di quei microfoni lì. I primi due della provincia di Sassari si erano comprati il signor Walter De Molik e poi un altro, adesso non ricordo chi era, ah sì, poi il produttore che si chiama, vabbè, non so che il nome è conosciuto, Capillo, non so se è conosciuto, vabbè, comunque se è conosciuto per il sapere. L'altro Walter De Molik, ma il microfono all'epoca, guarda, non l'ho pagato io da lui, intanto se l'ho portato 150 euro, ma va una modulazione strepitosa, c'ha il decolizzatore, le patente, tutto ha. Ma che microfono non me le dite ancora? Ecco, me lo metto così di altri, ti dice, ma io non so che cosa lo utilizziamo, vabbè. E che altro lo genetti? Da vedere quello, da vedere. Fratellire, ma non mi trovi in Dio, se sto dicendo non si trova in Dio. Mi sa bene che c'era solamente due, e adesso c'è. Il mio è un altro che non ha rifacciato. L'equalizzatore? E la tavola, naturalmente. Sì, ma no, non con l'equalizzatore che mi dice da poco, che sono usciti, no, niente che mi dica. E vabbè, da vedere, va. Attacco! Attacco c'ha una cosa a 9 oppure a 230 euro e si fa la cosa là. No, ma dico, l'attacco microfonico a 4. Non ti ha parlato lui, tu credi? Io ho usato il qualsiasi apparecchio, va bene, il qualsiasi apparecchio che lo metti, perché c'è il corso, non lo so, ma tu vedi la prestazione qua. Guarda, l'aria, se tu non ti senti niente, cosa costa un buon aumento di l'aria che ti senti? Cava, va bene, dai. Vediamo. Ciao Gianni. Qui lì, sì. E lo conosci questo microfono che c'è Giampaolo? Lo senti a Giampaolo, dico l'otto? Sì, già lo sento, ma buona anima già. Casa mia lì fa strano, eh. Al prossimo comunque lo sentivo, qua arrivo a Santiago 1. Scusa, ma tu sei un cane morto, Gianni. Ciao Alice, ma tu sei un cane morto. Non è preso a dire a quello là, capita, che non si rimane 150 euro. No, mi sto parlando, ragazzo. Ho fatto l'offerta, non diciamo per questo, guarda. Come faccio? Una cosa, ce l'ho lì. Capito, Gian Roger. Come ce l'ho detto, ce l'ho a lì, sì. Ehi, cosa mi stavo dicendo? Che ho messo io 250, che cosa? Questo è molto morto, non scrive la materia. Solamente ho la YouTube, io se lo vuoi sapere, poi non lo so. Io mi ho detto non sono venuto là con quello là, ho detto fai tu e tu penso, ho detto lo devi sapere tu, io cosa ne so quando fare quella roba. siccome la fiducia è internet, cosa facciamo se lui è andato su internet e è a controllare? Ha fatto una roba che pianla lui, mica lo pianla io. Sempre su ufficio, era un pubblicità, quindi non ti lascia entrare ali. Allora, quando non ci stai più apri gli sportini. Yeah. Adesso che c'è Linearone. Avanti, per Paolo. Guarda, guarda, c'è la però può darsi che non era lui, che la voce era uguale. Domani sera, te l'ha portata oggi. Voce del padrone. Sentiamo. stasera ci sentiamo. Ciao ciao.